Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Mica ma ha detto zia che è 11 toccata la iniezione, oh. Sembra che stia fallando di rabbi cancane. Questa poi è pure la prima che faccio io. E se vede pure. Come la vuoi fare, col pizzico o senza pizzico? Dammi lo strumento. Ma che sei matto con ste mani? Ammi, ma si buono, fio mio. Questa è il signora che c'ha competenza, non lo vedi? Competenza? Competenza di che? In camionista? Ma i camionisti sono bravi. Io mi ricordo facevo amore con un camionista, era tanto buono e bravo. E poi mi sono stupata, vabbè, fatti iniezioni, dai. Oh. Ma insomma, me la fa o non me la fa, iniezione? Ah, signore, è fatta. A giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma. Mi vado a fare una mezz'ora di sonno, perché io vengo dal prendere. Sto mestiere non è un mestiere, è una galera. Ecco, la domanda che mi faccio. Si riesce a parlare di camionisti senza ricadere nei più biechi stereotipi, dei quali io sono naturalmente la prima vittima, figuriamoci. Dite, camionista, immagino canottiera, sudore, cabina tappezzata di foto di calendari, che oggi non esistono più nemmeno i calendari con le foto, gli unici sono quelli con i pretini un po' carucci che si vendono in bianco e nero intorno al Vaticano, non esistono più i calendari con le donne nude, oggi il camionista immagino che abbia un wifi enorme, digitale, dove se vuole si guarda quello che gli pare, non credo che abbia bisogno di tappezzarle con le immagini delle donnine. Si immagina il camionista spocchioso, prepotente, il camionista che macina chilometri, il camionista che guarda il mondo dall'alto, il camionista che parcheggia il camion davanti ai motel dove vanno i camionisti e alle trattorie dove se ci sono i camionisti si mangia bene. Lì si mangia bene perché ci sono i camion, il segreto, come diceva mio nonno, poveraccio, che non aveva mai guidato più che una bicicletta, capito? Quando vedi una trattoria che fuori ci sono i camion vuol dire che si mangia bene, per camionista sono dei buon gustare, ma quando mai i camionisti andranno dove andiamo noi, vomiteranno lo schifo come vomitiamo noi quando mangiano male, troveranno dei posti mediamente a portata di tasche che non vogliono spendere troppo, o se no mangeranno anche bene, non lo so. Il camionista poi, dal punto di vista dell'automobilista, i camionisti sono tutti criminali, assassini, sì, è vero, qualche volta quando te li vedi sparati sulla corsia di sorpasso a tutta velocità hai l'impressione di sentirti, che ne so, un moscerino sulla rotaia di un treno, però magari non è così, magari la vediamo male. I camionisti, quando si fermano nelle piazzole, poi i camionisti dentro i camion, chissà cosa fanno, ci sono donnine allegre che si fermano apposta nei parcheggi perché ci vanno i camionisti, oppure gli scambisti vanno nelle piazzole, sono i camionisti, fanno vedere le mogli ai camionisti, cioè le sto dicendo tutte, avete altri luoghi comuni sui camionisti? E poi voi camionisti, che mi ascolterete sicuramente, ci sarà in tutta Italia, in questo momento, in tutte le autostrade d'Italia, un camion sintonizzato su Radio 24, che non sulla trasmissione specifica sui camionisti, vi va di dire esattamente qual è la vostra vita? Probabilmente non è ascrivibile in un unico modello, non ci sarà un modello unico della vita del camionista. Cosa c'è dentro le cabine di quei camion? Che io le immagino, le sogno. Mi piacerebbe tanto a me passare la vita, passare la giornata in una sorta di cabina alta del camion. Dietro non ci dovrebbe essere carico, dovrebbe esserci solo la motrice, perché l'idea che dietro c'è qualcosa di una cisterna piena di materiale infiammabile, un container pieno di mucche che muggiscono, maiali che grugniscono, è terribile vedere i camion che portano al macello gli animali. Io penso comunque lì c'è un camionista che si ferma nella piazzola con tutti i maiali, fanno lui scende, lì scende, va nella trattoria dove naturalmente si mangia bene, che ci va il camionista, va con la donnina allegra, guarda un attimo la moglie, fa vedere qualcuno e poi se ne riparte. Ve ne ho detti abbastanza, ne avete altri? 800 24 00 24. Oggi voce camionisti. Melog. Cronache meridiane passano molte ore, non solo di guida ma diciamo come impegno, perché si parte spesso la mattina presto, si arriva a casa spesso sera tardi, spesso si rimane a dormire fuori e si dorme ovviamente dentro il camion. I camion adesso sono confortevoli, c'è un riscaldamento, c'è la radio, si passa bene anche il tempo. Io poi sono appassionato di musica, ho sempre la chitarra in cabina, suono la chitarra, leggo libri, leggo riviste. Spesso i miei colleghi stanno ore e ore a parlare di camion. Io mi metto a suonare in cabina e passo il mio tempo, diciamo, cercando di dargli un po' di costruttività. Eccolo il primo camionista che risponde. Mio drag, ho detto bene? Sì, perfetto. Perfetto. Buongiorno, sono un serbo, originario serbo, però sono cittadino italiano. Serbo camionista, proprio il massimo. Sì. I serbi camionisti sono terribili, i serbi camionisti, penso, immagino. Beh, noi abbiamo un'etichetta dal 91 che siamo più cattivi del mondo e quindi non lasciamo... Ma come si distingue il camion di un serbo camionista da un altro camionista? Cosa avete sul camion di diverso? Non si distingue. Non ci avete scritto nulla, non c'è un'etichetta, no, niente? No, io non faccio quelle robe lì. E perché? Io sono un camionaro come tutti gli altri, non sono uno diverso dagli altri. Cosa trasporti? Adesso cosa stai trasportando, mio drag? Oggi ho scaricato i tubi di plastica, di fognature, di quelle robe lì. Il tubo da 100 delle fogne, benissimo. Sì, e adesso vado a caricare le piastrelle a Sassuolo. A Sassuolo, e dove le porti? E dopo li porto a Vicenza, io abito a Vicenza. Qual è il momento più bello di questa giornata? Quando ti è vero ci sono le trattorie dei camionisti che si mangia bene, o è una cazzata anche quella? Beh, diciamo che c'è un po' di verità, però ci sono anche i posti dove si prende una fregatura, diciamo la verità. Perché non è detto sempre che sia così. Ma voi comunicate sempre fra voi quello che accade nell'autostrada, certo, c'è una rete? Certo, abbiamo CB, comunichiamo, ci chiamiamo. Ma ancora usate il CB? Ma non fate prima usare WhatsApp adesso, non lo so, per capire. O ancora no, il CB? No. È più semplice CB e siamo più vicini. Quando dobbiamo comunicare con uno più vicino è sempre CB che si usa. E come ti chiami te sul CB? Ah no, non ho il nome. Guarda, io sono un camionaro per forza delle cose, ma no, quelle cose lì non tratto e non mi piace. Non avevi la vocazione al camionista? No, no, niente a vocazione. Ma è vero che avete una donna in ogni casello dell'autostrada? No, no, cazzo. Sì. Se vogliamo raccontare un'altra balla, andiamo a finire. Non lo so, no, questa è una balla anche questa, è vero, no? Ma per me si parla troppo, ma facciamo fatica anche a fare che cose a casa nostra, eh? Beh, grazie, state sempre fuori, siete sempre assenti, adesso non voglio dire. Io dire la verità, sono abbastanza a casa, diciamo, mi capita una o due notti fuori al mese, però... arrivi a casa perché proprio per quel motivo lì volevo dire la mia. Il discorso è che il nostro lavoro viene considerato un lavoro responsabile ma non usurante, e quindi noi non possiamo neanche usufruire di qualche mese all'anno di incentivi di andare in pensione un po' prima, perché non è usurante. Facciamo una cosa, mio drag, sentiamo. La domanda che faccio ai camionisti: quanto siete usurati? Datemi il vostro livello di usura, la percentuale dell'usura del camionista, perché questa mattina è importante capire se si può dire qualcosa di concreto, di realistico rispetto alla montagna di luoghi comuni sui camionisti. Giampaolo, buongiorno. Pronto, buongiorno. Camionista? Sì, io sono camionista, faccio questo mestiere praticamente da un anno, dopo un'avventura di 20 anni in officina. E la vita mi ha portato qua perché l'azienda in cui lavoravo è fallita, ha avuto un po' la lungimiranza di dare le patenti fin da ragazzo e mi sono servite, e attualmente faccio questo mestiere. Sei sul camion adesso? Sì, sono sul camion, sto facendo la pausa, sono qua bello spampanzato, mi guardo la campagna. Dove sei? Sono dalle parti di Mantova, Alto Mantovano. Quindi stai riposando, ti guardi la campagna steso sul... Ma sì, esatto. Ma là c'è un lettino lì dentro, una brandina? Sì, cosa c'è un lettino, no, ma in realtà adesso io stavo mangio, ma dopo passeggio, perché se uno deve stare sempre seduto va a finire che le gambe... Ah, gli vengono le emorroidi, certo, è chiaro. Bisogna comprare quel cuscino col buco, vero? No, non ce l'ho, io non ce l'ho. Però ce l'hanno molti camionisti. Può darsi di sì, io non lo so, io non ce l'ho. Comunque il camion è libertà, vista l'esperienza che ho fatto... Avere la possibilità comunque di stare in giro, è vero che si fanno grandi sacrifici, si fa molta fatica perché le ore di lavoro, soprattutto di impegno, sono veramente tante, però comunque ti dà una libertà, uno spazio per poter pensare anche che è molto maggiore rispetto a quello che succede in un Cosa fai nei momenti liberi? Ecco, adesso è il momento di relax, è il momento più bello, puoi pensare, nessuno ti disturba, nessuno ti cerca, se ci sono problemi in famiglia fatti loro, stai lì. Ti devi riposare, quindi è giusto. Cosa pensi in questi momenti? Come passa il tempo? Ma guarda, io sinceramente sono scrittore e cantautore, quindi magari lascio andare la mente e cerco ispirazioni per cose. Che ti insomma. Porti la chitarra nel camion? Ma no, quella non la porto, anche se me l'hanno consigliato in diversi, però non la porto. Scrivi canzoni, cosa fai? Scrivi canzoni? Sì, scrivo canzoni, ce n'è anche qualcuno in rete magari, se la volete ascoltare. Adesso diamo... Ma tu non hai chitarra, non hai niente, non puoi cantare, non puoi farci no, nulla. No, posso cantare qua così improvvisato, non la posso cantare. Insomma, sì, poi, dimmi una canzone del camionista per capire. Allora, prova ad andare a vedere Donna del Buio sulla rete. Il mio nome è Giampaolo, cognome Chighine, la trovate. Io scrivo canzoni, sono anche pubblicato un paio di pubblicazioni. Adesso, tra l'altro, scrivere si fa più fatica perché si dorme di meno, quindi già si dormiva poco. Ma cerchiamo Donna del Buio, la manderemo nel corso della trasmissione. Donna del Buio è il canto del camionista. Ma che scherzerà? Ma la mando davvero? Sì, sì, adesso la mandiamo fra un po', la stiamo cercando, è il tempo materiale. Ma raccontaci prima chi è questa Donna del Buio, così poi quando la gente la sente è Donna contenta. Del Buio è la donna, diciamo, ideale di cui sono innamorato da sempre. Non esiste nella realtà, però... Ma sono quelle che vedi di notte al buio quando ti fermi lungo la strada? No, ma questa canzone qua l'ho scritta tipo 3-4 anni fa, no, questa dopo canzone l'ho scritta una ventina, no, questa l'ho scritta in un momento in cui non facevo ancora l'autista, l'ho scritta così. Donna nel buio, questa sì, donna del buio. Ah, del buio, donna del buio. Sì, perché è metafora anche di uno stato d'animo proprio. Perché sei un po' depresso, scusa, se fai il camionista come fai? La stanno cercando, no. Ce la stiamo per avere. Ecco, fra un po' la sentiremo. Sì. E poi dopo, dimmi, raccontami bene questa Donna del Buio, racconta perché la stiamo per ascoltare. È fantastico, insomma, Donna del Buio è una donna che ti ha fatto innamorare. Eccola, la mandiamo sotto in sottofondo, è questa? Sei te? Aspetta, provo a alzare lì. Ecco. Non sento nulla. Non si sente. Non si sente. Abbasso perché sennò mi fa l'eco il camion. Sei te questa? Sì, è questa. Aspetta che provo a alzare. No, la stiamo sentendo noi. Qua sulla mia radio, forse perché fa disturbo col telefono, non la sento. Comunque sì, dai, sarà quella. È quella, Donna del Buio è quella. Con il mio cognome, no? Sì, sei proprio te. È quella lì, esatto. Ok. Bellissima, Donna del Buio, l'abbiamo sentita, è una canzone fantastica. E andiamo avanti con il prossimo camionista. Se non l'avete sentita, adesso ve la rimandiamo. Grazie. Forse è stato un problema di regia. Perché l'ho sentita io in cuffia, però non credo che sia andata in onda in tutto il mondo. Adesso la faremo sentire fra un po'. Resta in ascolto al tuo camion, sentirai Donna del Buio. C'è stata una cortocircuitazione di onde gravitazionali, per cui la Donna del Buio sì c'era, era nel buio, ma era talmente buiosa che non l'abbiamo ascoltata. Angelo. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Gianluca, innanzitutto è un piacere parlare con lei, l'ascolto tutti i giorni. Vabbè, ascoltate la radio dal camion, sì. Certo, io sempre Radio 24, mi fa compagnia e veramente i chilometri scorrono veloci. Ascolti, io volevo dirle che la vita del camionista ormai non è più quella di una volta, la tradizionale, quella antica, per quanto riguarda... Da quanti anni è cambiato secondo lei? Ma guardi, io ho iniziato che avevo 20 anni, adesso ne ho 62 e sono ancora su un camion. Adesso dove sta lei in questo momento? Adesso sono sulla A24 in direzione Venezia, praticamente dovrei scaricare e poi ricaricare. Cosa c'ha? Cosa ha caricato? Ma guardi, io faccio l'intermodale, tiriamo giù dei semirimorchi dai treni che arrivano dalla Germania, li scarichiamo, li ricarichiamo, li rimettiamo di nuovo sui treni e poi ripartono. Quindi questo... trasporta rimorchi praticamente? Semirimorchi chiaramente poi vanno scaricati, e così via. Ma io volevo soprattutto dirle che comunque il camionista tradizionale non esiste più, ormai noi siamo camionisti moderni. E in cosa sono cambiati? Non mi dica, perché io finora le persone che ho sentito ancora ci sono, diciamo, questa idea un po' romantica che ci porta alla casa dietro, che si fermano, che ragionano, che hanno idee, sono molto tempo con i loro pensieri. No, non è così. Non esiste, sì, sicuramente i pensieri ti fanno tanta compagnia. L'hai trovata la Donna del Buio? Ma no, io mia moglie, amo mia moglie, gli voglio tanto bene. E vabbè, adesso devi dire che la moglie sta ascoltando. Lo vuole dire che la moglie sta ascoltando, io posso anche ma capire. Ma mia moglie è una assidua ascoltatrice di Radio 24 e lei le piace molto, anche sì, se io dico che il mio scopo non è creare cemento nelle famiglie, ma è rovinare le famiglie se possibile. Quindi, in questo momento lasciamo il dubbio alla sua signora che lei stia dicendo questo proprio perché è una grandissima coda di paglia, così quando tornerà a casa avrete degli argomenti di discussione. E adesso finalmente, sanando l'errore di poco fa, donna nel buio del nostro amico camionista. Ti ho lasciata sola sulla strada, c'era il vento, c'era il buio e poi non ti ho vista più. Sola, ma il sentimento è spento, è da tanto che non sento e forse non c'è più. Quelle bugie che raccontavi, il veleno, il pentimento, mi incantavano. Voglio solamente raccontare di com'è lontano il mare e del male che ci sto. Non voglio sparare contro la Croce Rossa, ma a Sanremo questa canzone ci stava benissimo. Infinitamente meglio di tante canzoni che abbiamo sentito. Donna nel buio, ti ho lasciata sola nella strada, cioè quando l'ha riappoggiata sul marciapiede lì era rimasta nel buio. È una canzone struggente, è l'eterno canto del camionista che rimpiange quella donna che ha lasciato lì nel buio e quando ritorna non la vede più, perché è difficile vedere nel buio ciò che nel buio si nasconde e si camuffa molto bene. Ci fermiamo un istante, ma riflettete su questa canzone che è il grido d'amore disperato di un camionista che si perde nel buio lungo l'autostrada. Tra poco. Melog, cronache meridiane. Ti ho lasciata sola sulla strada, c'era il vento, c'era il buio e poi non ti ho vista più. Sola, ma il sentimento è spento, è da tanto che non sento e forse non c'è più. Ma quelle bugie che raccontavi, il veleno, il pentimento, mi incantavano. Voglio solamente raccontare di com'è lontano il mare e del male che ci sto. Donna del buio di Giampaolo Chidine, il nostro amico camionista che ci ha chiamato poco fa dicendoci che lui ingannava il tempo dell'attesa e del riposo, spaparanzato nella cabina del suo camion guardando la campagna, componendo canzoni. Ci ha detto come se fosse stato un suo peccato inconfessabile che scriveva canzoni. L'abbiamo trovata su YouTube e è bellissima. Donna del buio è diventato l'inno dei camionisti, ci stanno scrivendo non so quante persone dicendo la vogliono sentire e risentire, non ne sono mai appagati. Questa canzone penso che abbia ispirato anche i Pooh, che scrisse una canzone Donna al buio e bambina al sole, che però non ha nulla a che fare con Donna del buio, che è la canzone di Chidine. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la... Lei cosa fa? Io sono un autotrasportatore dipendente, trasporto macchine. Quindi non è padroncino, non ha il camion del suo? No, no, no, no, no, no, no, no. Meglio, no, meno responsabilità. Eh beh, sì, in un certo senso sì, ma tanto il lavoro è sempre simile, non è che cambia molto, via, diciamo. Lei dove sta adesso? Io mi trovo a Parma. A Parma, quella è la zona più in questo momento più frequentata da camion, perché vedo che passano tutti per l'Appennino. Ma lei è in pausa oppure sta camminando? No, no, no, io mi sono fermato che devo fare i gasoli, mi sto fermando adesso. Ah, sta facendo il pieno? Sì. E cosa c'ha? Cosa nel camion cosa trasporta? Vetture, macchine. Ah, macchine, c'ha gli automobili, si trasporta. Sì, sì, sì, sì. E qua, niente, ha già mangiato, si è già fermato a mangiare? No, no, devo mangiare ancora, adesso faccio i gasoli e poi riempio lo stomaco, via. Senta, ci racconta una cosa, ma esiste ancora questo problema dei furti e delle rapine ai camion quando vi fermate? Mi sembra aver sentito che una volta era un problema grosso. Ci sono ancora questi gruppi che assaltano i camion? Beh sì, purtroppo quando uno si ferma negli autogrill deve stare sempre un pochino attento, perché salgono dentro, rubano le schede, non lo so, dell'autostrada. Ah, le scale carburante, cioè per quindi sono altri camionisti, scusi, che ci fanno se no? Ma no, secondo me, come la vedo io di solito, anche perché l'hanno presi pure qualcuno, sono tutti zingari, questa gente qui. Ah, perché con le scale che ci fanno? Le rivendono magari? Non lo so, le rivendono, le usano e poi le buttano per una sola volta, magari ci fanno un bene e poi le buttano, perché sennò poi si risale a chi le ha usate, a che ora le ha usate. Comunque con la scheda uno può fare un pieno di un camion, quindi hai voglia di mettere benzina se uno vuole. Eh sì. Ma cosa sono? Come delle precaricate? Chi paga poi? No, paga l'azienda. Ah, l'azienda? Sì. Senta, ma voi siete controllati dalla vostra azienda? Cioè c'è il GPS che vi controlla dove andate, dove vi fermate? Sì, tutto quanto. Quindi lei come si ferma, guardano lì, dice perché sei fermo così, quant'è, sono 10 minuti, forza, dai, la chiamano? No, quello no, dai, sono abbastanza elastici via, però... Però il percorso è quello e non si esce. Sì, no, purtroppo no, anche perché poi controllano i consumi, controllano tutto. Ma che impressione fa avere una vita sempre geolocalizzata, tracciata? Che lei ogni... non è simpatico, anche perché poi le leggi sulla privacy neanche si potrebbe fare una cosa del genere, però lo fanno. Eh sì, che se gli unici lavoratori, diciamo l'unica categoria che è telecontrollata, che io sappia, nessuno accetterebbe. Sì, purtroppo sì. O è così o niente, o così o pomì, non esiste. O così o si va a spazio e non si lavora. E quindi già controllati. Ma anche i momenti di riposo vi controllano? Sì, anche quello. Ma sì. C'è una telecamera che vi guarda? No, quello no. No, quello no. Quindi non quello... si esce, controllo no. Totale. Quindi abbiamo già capito che il camionista ha una vita molto controllata, quindi noi pensiamo che sia purtroppo uno dei personaggi più incontrollabili, invece controllatissimo, perché come si muove qualcuno vede il suo tracciato. Susanna Schimperna. Eccoci. Perché ci ha chiamato? Gianluca. Donna nel buio. Sì, perché ho esperienze reali e virtuali con camionisti, molto... Ma non voglio entrare nella tua sfera intima e privata, però se puoi raccontarle... Allora, cominciamo da quelle reali. Sì. A un certo punto della mia vita, quando avevo tipo 15-16 anni, mia madre si innamorò letteralmente della vita di chi ha il motor caravan, motor home, quella roba sì. Lì, no? Aveva visto molti film. Sì, insomma, cominciò, no, una cosa casuale, cominciò da una roulotte, mai nessuno l'avrebbe pensato, e finì con un motor home fantastico, disegnato da lei in tutti i particolari, lei poi era una specie di genio della meccanica, e quindi andavamo in giro, io spesso andavo a lei con questa cosa dorata, meravigliosa. Susanna Schipenna, ricordo, se ci fosse bisogno, una scrittrice, un'autrice, una pensatrice, una filosofa, editrice di fumetti, Osè, tutto ha fatto nella vita, quindi è una donna di pensiero. Tanto e niente per me pari sono, diceva mia nonna, non a caso le nonne dicono sempre cose intelligenti. Però adesso capisco le tue radici, una mamma costruiva camion. Quindi... Una mamma pazzesca, no, costruiva tutto, sapeva fare tutto ed era bellissima, quindi, capito? Già partendo così sono partita molto male. Naturalmente, per quanto lei fosse un genio della meccanica, già attirava molto l'attenzione con questo camper dorato, tutti volevano vedere dentro, volevano anche vedere lei che era di una bellezza unica, ma ogni tanto questo camper si fermava. E gli episodi sono tantissimi con i camionisti, allora le persone che più ci aiutavano erano i camionisti. Vorrei vedere. Sotto il diluvio, nella tempesta sempre. Indovina, se c'è la mamma con i baffi e le vene varicose col piffero. So. No, ma a volte non la vedevano neanche, guarda, erano meravigliosi. Però poi dopo c'era ogni tanto, io mi ricordo 3-4 episodi terribili, c'era ogni tanto lo spirito competitivo di questi giganti, perché più avevano il camion grosso e più pensavano che nessuno potesse permettersi di superarlo. Noi uomini abbiamo spesso questa sorta di allucinazione. E a questo punto io mi ricordo vere e proprie cose tipo duel per la strada, pazzesche, a un centimetro l'uno dall'altro dove si rischiava... Cioè un camper qualunque... dorato con la mamma bella e la piccola Susannina con la sua Barbie tremebonda fra le mani... Con la sua Barbie che si divertiva pure, però ogni tanto diceva mamma lascialo stare, quello è anche più grosso di noi, e lei diceva io non gliela do vinta manco morta. E la madre faceva le gare di sorpasso con gli autotreni. E mia madre faceva le gare di sorpasso a un centimetro sulle autostrade, tra l'altro guarda la Reggio Calabria-Salerno era praticata. È uguale adesso praticamente. Sì. Era un po' peggio, ti assicuro era un po' peggio. Poi altra esperienza invece virtuale, indiretta ma secondo me molto significativa. Quando io facevo radio, l'ho fatta a lungo da mezzanotte alle 2 del mattino, non c'era fermata, la facevo tutti i giorni, in cui non chiamassero almeno 6-7 camionisti, ma non sempre. Quando avevo degli argomenti più leggeri, più così scherzosi, che ne so, la cotta estiva o cose di questo, le brutte figure, non chiamavano i camionisti. Quando andavo su, ma voi credete nell'aldilà e come ve lo immaginate? Oppure cose molto più concettose, ancora più complicate, stai sicuro che intervenivano i camionisti dicendo delle cose intelligenti e con una voglia di approfondire incredibile, perché credo, mi pare ovvio, che stando lì nel camion a rompersi certo. le scatole tutta la notte, pensano. La voglia di essere intrattenuti, stimolati anche per restare infatti svegli. Lungo le strade c'è un sacco di gente che sta lì apposta per intrattenerli e stimolarli, è chiaro, sono come degli stiliti, degli anacoreti sulla colonna, sono lì e sono più vicini all'origine di ogni pensiero perché stanno più in alto. E pensano a cose, il programma, quando parlavo degli UFO, pensano tantissimo, vogliono pensare tantissimo, e da un momento, chissà, forse se ci sarà una rinascita culturale e creativa, può anche darsi che venga un po' da quella parte. Guarda, ne sono più convinto adesso, poi dopo la terribile e angosciosa scomparsa di Umberto Eco, se ci sarà in Italia una rinascita culturale, ha proprio ragione Susanna Schimberna, dobbiamo confidare nei camionisti. Grazie Susanna. Enni, buongiorno. Buongiorno. Sì. Lei di poche parole, immagino, Enni. No. Beh, poche parole. Dopo tanti anni sulla strada... Passa la voglia di parlare, sì. No, ho chiamato perché voglio proprio parlare. Sto ascoltando. Parli. Io ho cominciato 40 anni fa. E il mondo del camionaro si è evoluto con il camion. Ma perché vi chiamate camionari? Già la seconda persona si dice camionaro. È meglio di camionisti. Camionaro? Sì, beh, si dice camionisti, ma noi ci diciamo camionari. Fra voi, diciamo, nel vostro gergo, camionari sì, siete. Vabbè. Camionari. Comunque, il mondo dell'autotrasporto ormai si è evoluto. Adesso col camion che ho, che è nuovo, da quando ho cominciato è un gioiello. È bello. Una volta cose simili te le sognavi. Senta, ma quando io già per me posso fare una domanda, Annie. Per me è già un problema lavare la macchina, che è zozza. Ma quando dovete lavare il camion, come fate? Chi ve lo lava? No, adesso ci sono i lavaggi. L'autolavaggio, cioè il camion lavaggio. Sì, porti il camion lavaggio, se non hai lavaggio in azienda, lo porti al lavaggio e lo lavi. Ma si lava una volta si passava le ore a lavarlo. Me lo immagino. Col sale, per via del sale, o perché c'era sabbia, o perché trasportavi merce. Merce che era... sì, che sporcava... Beh, quando uno trasporta i maiali, certo, non è che lasciano pulito, quando, quello è chiaro. No, quelli hanno tutto un altro sistema, un altro programma, perché loro lo devono lavare e disinfettare. Ma senta, mi dice una cosa, Annie, c'è qualcosa che... Sì. Nessuno vuol mai trasportare, e quando dicono porta questo, uno dice ma no, guarda, proprio no. Qualcosa, non so, liquidi infiammabili, qual è la cosa che meno si porta volentieri? Allora, per portare liquidi infiammabili, praticamente ci vuole il patentino dell'ADR. Un patentino apposta? Sì, una patentina apposta, devi seguire un corso dove puoi portare, a seconda della classe, che prendi come patentino, puoi portare liquidi infiammabili, puoi portare gli esplosivi, puoi portare merci pericolose in una certa quantità. Lei non lo prende, lei, questo patentino? Inutile. No, io il patentino l'ho preso. Ah, ce l'ha? Lei può portare anche esplosivi, tutto? No, io l'ho tenuto 3 anni e poi l'ho buttato via. Perché? Non vuole rischiare la vita, giustamente. No, a parte quello... è un trasporto come un altro, basta fare attenzione, però ogni volta che carichi un bancale ci sono 20 cose diverse in quel bancale, ogni bolla ha 5 coppie, quando carichi 10 bancali con 10 cose differenti devi firmare tante di quelle carte, 50 coppie, è una cosa impossibile. Fermiamoci un istante, grazie alla testimonianza, caro Enni, ci sentiamo fra un secondo. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Melog. Cronache meridiane. Quando sono tornato sulla strada, nel tramonto c'era il buio, eri sola ma con lui. Con quei tuoi capelli scapigliati da un amante disegnati, che dicevano di te, di te. Certo che ora scemo lo puoi dire, tanto non ti sto a sentire, tanto in fondo già lo so, lo so, lo so. Qua in questa fase successiva del componimento Donna del Buio di Giampaolo Chigine, amico camionista che ci ha confessato la sua passione per la canzone, infatti sta avendo un grande successo, ci stanno chiedendo tutti Donna del Buio, la vogliamo sentire, datecene ancora. Capiamo però, andando avanti, come ho detto, in questo passaggio si consuma il dramma. Scompare la Donna del Buio, ma quando riappare la Donna del Buio non è più sola, sta con un altro. E qui si consuma un dramma struggente, un dramma profondo, un dramma che incrocia le vette di tutte le più profonde e sublimi domande sull'esistenza che si è mai fatto un essere umano, che normalmente si fa Giampaolo Chigine guardando il buio, dal buio della sua anima e dal buio dell'abitacolo del suo camion, e quindi si dà una risposta facendosi anche delle domande. Geng, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Geng, dove sta col suo camion? A Treviso. A Treviso. Sì. Lei è senegalese? Sì, sì, sono originario del Senegal, sì. Io sul mio camion sono riuscito a scrivere un libro che si chiama Ancora in tempo, diamo forma all'integrazione. Se lei va su Google lo trova con le varie presentazioni che ho fatto. Quindi allora, Geng, camionista senegalese, sì, nei momenti, sì, di pausa, mentre Giampaolo fa canzoni, scrive libri, scrive trattati, saggi sull'integrazione. Proprio così, proprio così. Bravo. Proprio così. Ma cosa c'ha? C'ha un computer dentro la cabina? Come funziona? No, a mano, l'ho scritto tutto, tutto a mano. Dopo magari sabato e domenica riporto tutto sul computer, dopo la casa editrice ha fatto tutto il resto. Ma non fa prima a scriverlo direttamente con la tastiera? No, per sapere. No, è più poetico così. Sì, sì, così, sì, perché sono all'antico io per quello. In che lingua lo scrive? No, in italiano l'ho scritto. Ah, in italiano, ancora, bravo. Ancora in tempo. Se lei va su Google, mette Ancora in tempo, Geng. Allora, Ancora in tempo, cercate, sì, su Google, Geng, si scrive Dieng. Dieng si scrive. Domodossola, Imola, Empoli, Napoli, Genova. Lo cerchiamo subito. Dieng, sì. Il libro si chiama? Ancora in tempo. Racconti, lo esprima, dica esattamente cosa voleva dire in questo libro che ha scritto, cioè, nelle sue pause. Libro ho parlato della mia esperienza lavorativa, del mio arrivo in Italia da clandestino a che adesso sono italiano naturalizzato. Lei come è arrivato in Italia? Clandestino, per dove è passato quando è arrivato in Italia? No, io ho preso l'aereo, avevo ai quei tempi non c'era il visto d'ingresso, bastava far vedere il suo motivo del suo viaggio. Ma lei è venuto come turista e poi c'è rimasto, ecco. Sì, allora. Sì, sono arrivato come turista. Avevo in programma altre cose che magari la sorte oppure il destino ha voluto che diventassi camionista. E come è successo che è diventato camionista? Chi gli ha dato questa idea? Perché mi sono messo a studiare per primo, per approfondire proprio, però mi sono trovato un problema davanti perché i diplomi che avevo giù in Senegal non valevano in Italia, devo rifare tutto quanto. Lei aveva studiato in Senegal, devo rifare da, sì, capo tutto. Sì, sì, facevo l'impiegato in Senegal. E l'ha fatto, ha studiato? Sì, sì, ho studiato, sì. Però le rimane questa passione per la letteratura, per la saggistica? Per la letteratura, per la politica e tutto quanto. Cioè, perché non è che bisogna... Il camionista non deve essere proprio uno, proprio scemo, proprio... No, mica scemo fino in fondo. No, assolutamente, nessuno pensa... No, perché è un mestiere proprio snobato di un... tutti quanti si dipingono come brufoni, cioè proprio... Ma lei è un bel camion, Geng, un bel camion, il suo è bello, le piace? È discreto, ha le sue anime, è discreto. È il suo proprio di proprietà? No, io sono sotto dipendenza. E come l'ha arredato dentro? Diciamo, c'è anche dove si dorme, dove si mangia? No, sì, cioè, pulito lo tengo pulito perché è la seconda camera mia. Ah, è un bilocale quindi? Sì, sì, è un bilocale, c'è tutto. Beh, l'ordine primo di tutti, la pulizia, e dopo non sono un fanatico comunque di decorazione e robe varie, perché... Beh, qualcosina ci sarà, dai, un segno no, di... No. Nemmeno no, un quadro, io... niente, non ci ha messo... No, io pulizia, libri, giornali... Pieno di libri. E basta. Quindi Geng, camionista senegalese, ha la sua biblioteca, e quando si ferma... A mano scrive i suoi libri. Complimenti, sì. In bocca al lupo. Grazie. Buon viaggio, ciao Geng. Riccardo, buongiorno Riccardo. Ah, buongiorno Gianluca, buongiorno. Riccardo, 45 anni, da 25 anni camionista. Una vita sul camion, allora? Dimmi. Sì, praticamente sì, famiglia a casa, il piccolo a casa. Beh, questa è una pacchia, però scusami. Dite lavoro usurante. Io non voglio dire, abbiamo rovesciato il luogo comune, ma uno scrive canzoni, l'altro scrive libri. L'altro si fa una bella spaparanzata. Lei mi dice famiglia casa, che è la botta di fortuna che tutti possono sperare. La famiglia casa, tu in giro. Cioè, dov'è questa usura? È più usurato? L'usura è che purtroppo il contratto nostro di camionisti è pessimo. Vabbè, la questione sindacale, sì, questi sì, sono fatti, questo lo capisco, lo posso capire, ma in realtà il senso della libertà che abbia il camionista è raro. Non c'è più, no, manco più liberi. No. Perché non c'è il GPS. C'è l'avventura che si pensa di una volta, non c'è. O ci fosse un camionista che mi racconta un'avventura. Vediamo se negli ultimi istanti. Il camionista si chiama adesso impiegato del volante, deve sapere tante cose, perché le multe sono carissime. Certo. Insomma, è un lavoro molto di impegno. Anche perché maneggia un oggettino che quando è partito di velocità bisogna aver studiato per sapere come gestirlo, perché sennò non è facile. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, grossi complimenti per la trasmissione e soprattutto per il cinismo. Avventure purtroppo, come è andata a finire il lavoro in questo momento, in questa situazione, tendiamo più a schivarle che a cercarle. Mi simulo un'avventura, me la racconti, anche se fosse una cosa che inventata, mi faccia sognare. No, non è questo. Non succede inventare. Mai, non succede la signora che gli si ferma la macchina, che vi ferma e dice mi aiuti buon uomo, mi aiuti a questo pneumatico sgonfio, dovrei rigonfiarlo, cioè non esiste nulla più di questo. Ma no, esiste, ci sono ancora, però bene o male, certe cose arrivate a un certo punto si tendono anche a schivare, perché purtroppo abbiamo delle responsabilità. Nemmeno, mi dia una spintarella, queste cose tipiche, niente. Ma sì, magari la notte che ti bussa la cabina, qualche signorina che ha bisogno di compagnia, piuttosto che queste robe. Sì, ha bisogno di compagnia, però in cambio la compagnia vi chiede anche qualche soldino magari, no? Ci sono le volte che magari troviamo delle signore che l'amore lo vendono, delle signore che l'amore lo cercano per solitudine. Ma accade questa cosa, signora che cerca solitudine va a cercare il camionista ancora? Capita sì, ancora, soprattutto lì nella zona di Firenze, di Parma e quelle zone. Ah, Parma e Firenze è un'area in cui i camionisti sono merce ambita. In teoria, una volta. Cioè invece che andare a cercare il Big Bamboo in paesi esotici, si cerca il Big Creek del camionista nella piazzola dell'autostrada. Cercheremo di fare il possibile, apriamo la bancarella. Che vi devo dire, signori miei? Oggi è un mondo in cui ognuno può ambire a ciò che vuole. Giorgio. Ciao Nicoletti, sono Giorgio il Grizzly. Ma guarda che siamo i nuovi moderni schiavi, siamo i nuovi magazzini. Sempre a piangervi addosso, però tutti piangono addosso. Ci fosse uno che dice, sono contento. Siete i nuovi moderni schiavi, avete lavori usuranti, nella zona del Parmigiano e sono le signore che ancora vengono a cercare. Scrivete canzoni, leggete libri e viva il camionista con la sua donna nel buio. Nel tramonto c'era il buio, eri sola ma con lui. Con quei tuoi capelli scapigliati da un amante disegnati, che dicevano di te, di te.